Stadiums ad un passo dalle ore 11 con Big City, Big City Night. Tra non molto quindi entreremo nell'ultima ora, negli ultimi 60 minuti di questo giovedì 15 maggio, poi vi lascerò con Claudia dalle ore 12 alle ore 14.